Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Danglars seguì con gli occhi Edmond e Mercedes, finché i due innamorati sparirono dietro uno degli angoli del forte Saint-Nicolas. Poi, voltandosi, si accorse che Fernand era ricaduto sulla panca pallido e tremante, mentre Caderousse balbettava le parole di una canzone d'osteria. «Ecco, mio caro signore», disse Danglars a Fernand, «ecco un matrimonio che non mi sembra fare la felicità di tutti». «Mi fa disperare», disse Fernand. «Voi dunque amate Mercedes?» «L'adoro», rispose Fernand. «Vediamo», disse Danglars. «Voi mi sembrate un giovane gentile e vorrei che il diavolo mi porti a aiutarvi, ma...» «Sì», disse Caderousse, «troviamo il modo». «Cercando bene», disse Danglars, «lo si potrebbe trovare». «Ah, ma poi di che diavolo mi mischio? È forse cosa che mi riguarda». «Non so se vi riguarda», rispose Fernand afferrandogli il braccio. «So solo che avete un motivo particolare di odio contro Dantès, e chi odia non si inganna sui sentimenti degli altri». «Io? Un motivo di odio contro Dantès? Nessuno, parola mia. Vi ho visto infelice, la vostra infelicità mi ha commosso, ecco tutto. Ma poiché credete che io agisca per mio interesse, addio, mio caro amico, sbrigatevela come potete». E Danglars fece il gesto di alzarsi. «No», disse Fernand trattenendolo, «rimanete. In fin dei conti poco mi importa se voi odiate o no Dantès, io lo odio e lo confesso apertamente. Trovate il modo e io eseguirò». «Cameriere!» chiamò Danglars. «Carta, penna e calamaio!» «Carta, penna e calamaio?» mormorò Fernand. «Sì, io sono un contabile. La penna, l'inchiostro e la carta sono i miei strumenti, e senza di essi non saprei fare niente». «Carta, penna e calamaio!» gridò a sua volta Fernand. «È tutto su quel tavolo!» disse il cameriere, indicando gli oggetti richiesti. «Ebbene, per esempio», disse Danglars, «se dopo un viaggio come quello che ha fatto Dantès e in cui ha toccato Napoli e l'isola d'Elba, qualcuno lo denunciasse al procuratore del re come agente bonapartista...» «Lo denuncerò io!» esclamò con vivacità Fernand. «Sì, ma in questo caso vi faranno firmare la vostra dichiarazione e sarete messo a confronto con chi avete denunciato». «No, no, no, no. Se si decide una cosa simile, capita bene, è meglio fare le cose con tutta semplicità, come sto facendo io. Prendere questa penna, bagnarla nell'inchiostro e scrivere con la mano sinistra, affinché la grafia non sia riconoscibile, una piccola denuncia. Così». E Danglars, unendo l'esempio all'insegnamento, scrisse con la mano sinistra e con una scrittura inclinata che non aveva alcuna somiglianza con quella abituale le seguenti parole che passò a Fernand, il quale lesse sottovoce: «Il signor procuratore del re è avvisato da un amico del trono e della religione che un tale, di nome Edmond Dantès, secondo sul bastimento Faraon, giunto questa mattina da Smirne dopo aver toccato Napoli e Porto Ferraio, è stato incaricato da Murat di consegnare un plico per l'usurpatore e dall'usurpatore una lettera per il comitato bonapartista di Parigi. Si avrà la prova del suo crimine arrestandolo, perché si troverà la lettera o nelle sue tasche o in casa di suo padre o nella sua cabina a bordo del Faraon». «Ecco fatto», continuò Danglars. «Così la vostra vendetta avrebbe senso, poiché in nessun modo potrebbe ricadere su di voi e la cosa andrebbe avanti da sola». «Sì, tutto sarebbe risolto», gridò Caderousse, che con un ultimo sforzo di intelligenza aveva seguito la lettura e che comprendeva distinto tutto il male che avrebbe potuto provocare una simile denuncia. «Sì, tutto sarebbe risolto, soltanto sarebbe un'infamia». E allungò il braccio per prendere la lettera. «Ma», disse Danglars allontanando la lettera, «ma tutto ciò che ho detto è fatto, è solo uno scherzo». Prese la lettera, la accartocciò con le mani e la gettò in un angolo del pergolato. «Meno male», disse Caderousse, Dantes è mio amico e non voglio che gli si faccia del male. D'accordo, disse Danglars. Adesso è ora di ritornare a casa. Su, dammi il braccio e andiamo. Quando fu a una ventina di passi, Danglars si voltò e vide Fernand precipitarsi sul foglio e metterlo in tasca. Poi subito balzò fuori dal pergolato e svoltò per la strada del Pillon. «Andiamo! Andiamo!» mormorò Danglars. «Credo che la faccenda ora sia ben avviata e non resti altro che farla procedere da sola». L'indomani era una bellissima giornata. Il pranzo era stato preparato al primo piano della Réserve, l'osteria con il pergolato di cui abbiamo già fatto conoscenza. Benché il pranzo fosse fissato per mezzogiorno, già dalle 11 del mattino la terrazza era colma di persone che passeggiavano con impazienza. Appena il signor Morrel fu entrato, Danglars e Caderousse vennero incaricati di andare incontro al fidanzato. Dovevano avvertirlo dell'arrivo del personaggio importante. Danglars e Caderousse partirono di corsa, ma non ebbero fatto 100 passi che all'altezza del deposito delle polveri scorsero una piccola comitiva che veniva verso di loro. Questa piccola comitiva era composta da 4 ragazze, amiche di Mercedes e catalane come lei, che accompagnavano la fidanzata a cui Edmond dava il braccio. Vicino alla futura sposa camminava il vecchio Dantès e dietro di loro veniva Fernand con un sorriso sinistro. Dantès era vestito con semplicità, poiché apparteneva alla marina mercantile. Indossava un abito fra l'uniforme militare e l'abito civile, e sotto questo abito il suo aspetto, cui la gioia e la bellezza della sua fidanzata aggiungevano splendore, era superbo. Mercedes era bella come una di quelle greche di Cipro o di Ceo, con occhi d'ebano e labbra di corallo. Camminava con il passo sciolto e disinvolto delle arlesiane e delle andaluse. Quando i fidanzati e i loro accompagnatori furono in vista della Réserve, Morrel scese e andò verso di loro, seguito dai marinai e dai soldati con i quali si era intrattenuto, confermando la promessa già fatta a Dantès di nominarlo al posto del capitano Leclerc. Edmond Vedendolo arrivare, lasciò il braccio della fidanzata e lo passò a Morrel. L'armatore e la ragazza diedero allora l'esempio, salendo per primi la scala di legno che portava alla sala dove era preparato il pranzo. La scala scricchiolò per 5 minuti sotto i passi pesanti dei convitati. «Padre mio», disse Mercedes fermandosi al centro della tavola, «voi starete alla mia destra, vi prego. Alla sinistra metterò colui che finora mi ha fatto da fratello». E parlò con una dolcezza che penetrò come un colpo di pugnale nel più profondo del cuore di Fernand. Le sue labbra si strinsero e sotto il colore livido del suo viso maschio si poté vedere il sangue ritirarsi a poco per affluire al cuore. Intanto Dantès aveva eseguito la stessa manovra. Alla sua destra aveva posto Morrel, alla sinistra Danglars. Quindi aveva fatto segno con la mano che ciascuno prendesse posto a suo piacimento. «Ma che silenzio!» esclamò il vecchio Dantès, assaggiando un bicchiere di vino giallo topazio che papà Panfili in persona aveva portato a Mercedes. «Chi direbbe che qui ci sono 30 persone che chiedono solo di ridere? Eh, un marito non sempre allegro!» commentò Caderousse. «Il fatto è», spiegò Dantès, «che in questo momento sono troppo felice. La felicità è come quei palazzi delle isole incantate, le cui porte sono guardate dai draghi. Bisogna combattere per conquistarli. E io, in verità, non so come abbia meritato la felicità di essere il marito di Mercedes». «Marito, marito», disse Caderousse ridendo, «non ancora, caro capitano. Provaci un po' a fare il marito e vedrai, vedrai come sarai ricevuto». «In fede mia», disse Dantès tirando fuori l'orologio, «vicino Caderousse, non vale la pena di smentirmi per così poco. Mercedes non è ancora mia moglie, è vero, ma fra un'ora e mezzo lo sarà». Tutti emisero un grido di sorpresa, eccetto il padre di Dantès, il cui largo sorriso mostrava dei denti ancora belli. Mercedes sorrise e smise di arrossire. Fernand afferrò convulsamente il manico del suo coltello. «Fra un'ora e mezzo?» disse Danglars impallidendo. «E come mai?» «Sì, amici miei», rispose Dantès. «Grazie all'influenza del signor Morrel, l'uomo al quale dopo mio padre io devo di più al mondo, tutte le difficoltà sono state appianate. Abbiamo fatto le pubblicazioni e alle 2:30 il sindaco di Marsiglia ci aspetta al municipio. Dato che è quasi la 1:15, credo di non essermi sbagliato di molto dicendo che tra 1:30 Mercedes si chiamerà signora Dantès». Fernand chiuse gli occhi. Una nube di fuoco gli bruciò le palpebre. Si appoggiò al tavolo per non svenire. E malgrado tutti i suoi sforzi non poté trattenere un gemito sordo che si perse fra il rumore delle risa e le felicitazioni dei convitati. Sordo rintronò sulle scale. Un fragore di passi e un mormorio di voci, confuso all'urtarsi di armi, superò le esclamazioni dei convitati, per quanto chiassose, e attirò l'attenzione generale, che si manifestò all'istante con un silenzio inquieto. Il rumore si avvicinò. Tre colpi batterono alla porta. Ognuno guardò il proprio vicino con sorpresa. «In nome della legge!» gridò una voce a cui nessuno rispose. La porta si aprì e un commissario, cinto della sua sciarpa, entrò nella sala seguito da quattro soldati armati e da un caporale. L'inquietudine si mutò in terrore. «Che c'è?» domandò l'armatore, facendosi avanti al commissario che conosceva. «Certamente, signore, qui c'è un errore.» «Se c'è un errore, signor Morrel», rispose il commissario, «state sicuro che sarà presto riparato. Intanto qui ho un mandato di arresto e, sebbene esegua l'ordine con dispiacere, sono obbligato a eseguirlo. Signori, chi di voi si chiama Edmond Dantès?» Tutti gli sguardi si voltarono verso il giovane che, molto turbato ma conservando la sua dignità, fece un passo avanti e disse: «Sono io, signore. Che si vuole da me?» «Edmond Dantès», riprese il commissario, «in nome della legge voi siete in arresto.» «Voi mi arrestate?» disse Edmond con un leggero pallore. «Ma perché?» «Non lo so, ma lo verrete a sapere durante il primo interrogatorio.» E il vecchio Dantès si precipitò verso l'ufficiale. Vi sono cose che il cuore di un padre o di una madre non capiscono mai. Pregò e supplicò. Lacrime e preghiere non ebbero alcun potere, ma la sua disperazione era così grande che il commissario ne fu commosso. «Signore», disse, «state calmo. Forse vostro figlio avrà trascurato una formalità di dogana o di sanità, e con ogni probabilità, quando avremo ricevuto da lui i chiarimenti necessari, sarà rimesso in libertà.» «Che significa tutto ciò?» domandò Caderousse aggrottando le sopracciglia a Danglars, che fingeva sorpresa. «Lo so io, forse?» disse Danglars. «Io ne so quanto te. Vedo ciò che accade. Non ci capisco niente e sono confuso.» Caderousse cercò con gli occhi Fernand. Era sparito. Tutta la scena del giorno precedente gli si presentò allora con spaventosa chiarezza. Si sarebbe detto che la catastrofe aveva alzato il velo che l'ubriachezza del giorno innanzi aveva calato fra lui e la sua memoria. «Oh, oh!» disse con voce rauca. «Sarebbe questa la conseguenza dello scherzo di cui parlavate ieri, Danglars? In questo caso guai a colui che l'avesse fatto, perché è proprio malvagio.» «Niente affatto», rispose Danglars. «Tu sai bene che invece ho stracciato il foglio.» «Tu non l'hai stracciato!» gridò Caderousse. «L'hai spiegazzato e gettato in un angolo, ecco tutto!» «Taci tu! Non hai visto nulla! Eri ubriaco!» «Dov'è Fernand?» domandò Caderousse. «E che ne so!» rispose Danglars. «Forse sarà andato per fatti suoi. Ma invece di occuparci di lui, andiamo piuttosto a consolare questi poveri infelici!» Infatti, durante questa conversazione, Dantès aveva stretto la mano sorridendo ai suoi amici e si era costituito prigioniero dicendo: «State tranquilli. Ben presto si spiegherà l'equivoco e probabilmente non andrò neppure in prigione.» «Oh, sì, certamente, io ne risponderei!» disse Danglars, che in quel momento si avvicinava, come abbiamo detto, al gruppo principale. Dantès scese la scala preceduto dal commissario di polizia e circondato dai soldati. Una carrozza con lo sportello aperto aspettava davanti alla porta. Vi salì. Due soldati e il commissario di polizia salirono dopo di lui. Lo sportello venne chiuso e la carrozza riprese la strada di Marsiglia. «Addio, Dantès! Addio, Edmond!» gridava Mercedes, sporgendosi fuori dalla balaustra. Il prigioniero intese quest'ultimo grido, uscito come un singhiozzo dal cuore lacerato della fidanzata. Sporse la testa dalla portiera e gridò: «Arrivederci, Mercedes!» E scomparve dietro uno degli angoli del forte Saint-Nicolas. «Aspettatemi qui», disse l'armatore. Prendo la prima carrozza che trovo, corro a Marsiglia e vi porterò notizie. Andate! Gridarono tutti insieme. Andate! E tornate presto! Amici! Gridò uno dei convitati che era rimasto di vedetta sulla terrazza. Amici, una carrozza! Ah, signor Morrel! Coraggio! Senza dubbio ci porta buone notizie! Mercedes e il vecchio padre corsero incontro all'armatore, che incontrarono sulla porta. Il signor Morrel era pallidissimo. Ebbene! Gridarono a una voce. Ebbene, ebbene, amici miei! Rispose l'armatore scuotendo la testa. L'affare è più grave di quello che si possa pensare. Oh, signore, gridò Mercedes. Lui è innocente. Lo credo, rispose Morrel. Ma è accusato di cosa, dunque? Domandò il vecchio Dantès. Di essere un agente bonapartista. Chi fra i miei lettori è vissuto nell'epoca in cui accadde questa storia si ricorderà quale terribile accusa fosse quella riferita da Morrel. Mercedes gettò un grido e il vecchio si lasciò cadere su una sedia. «Ah!» mormorò Caderousse. «Tu mi hai ingannato, Danglars! Lo scherzo è stato fatto! Ma io non voglio lasciar morire di dolore questo vecchio e questa ragazza! Vado da loro e racconto tutto! Taci, disgraziato!» esclamò Danglars afferrando la mano di Caderousse. «O io non rispondo della tua vita! Chi ti dice che Dantès non sia veramente colpevole?» Il bastimento si è fermato all'isola d'Elba. Lui ne è disceso. È rimasto un giorno intero a Portoferraio. Se si è trovata una lettera compromettente, chi volesse difenderlo potrebbe essere considerato suo complice. Caderousse, con l'intuito dell'egoista, comprese la solidità di questo ragionamento, guardò Danglars con occhi inebetiti dalla paura e dal dispiacere, e per un passo che aveva fatto in avanti, ne fece due indietro. «Aspettiamo, allora», mormorò. «L'avreste creduto, mio caro Danglars?» chiese Morrel raggiungendo il suo contabile Caderousse con l'intenzione di tornare in fretta in città per avere notizie dirette di Edmond dal sostituto procuratore del re, il signor Villefort, che conosceva un poco. «L'avreste mai creduto?» «Diamine, signore», rispose Danglars. Vi avevo detto che Dantès non si sarebbe fermato senza motivo all'isola d'Elba, e questa sosta, lo sapete, mi era sembrata sospetta. Ma avete parlato a qualcun altro, oltre a me, di questo vostro sospetto? Me ne sarei ben guardato, soggiunse a bassa voce Danglars. Sapete bene che a causa di vostro zio, Policar Morrel, il quale ha servito sotto l'altro e non nasconde le sue idee, voi siete sospettato di rimpiangere Napoleone, e avrei avuto paura di far torto a Edmond non meno che a voi. Vi sono cose che è dovere del subordinato dire al suo armatore e tenere nascoste agli altri. Bene, Danglars, bene, disse Morrel. Siete un brav'uomo. Per questo avevo pensato a voi nel caso in cui il povero Dantès fosse divenuto capitano del Faraon. Come, signore? Sì, avevo già chiesto a Dantes cosa pensava di voi. E se avesse obiezioni a conservarvi il posto, non so perché, ma mi era parso di cogliere un po' di freddezza fra voi due. E cosa ha risposto? Che credeva in effetti di avervi fatto un torto, ma in una circostanza che non ha voluto precisare, ma ha aggiunto che chiunque avesse avuto la fiducia dell'armatore avrebbe avuto anche la sua. L'ipocrita, mormorò Danglars. Povero Dantes, disse Caderousse. È innegabile che fosse un eccellente giovane. Sì, sì, ma intanto, osservò Morrel, il faraone senza capitano. Ah, speriamo, dato che non ripartiremo prima di 3 mesi, che nel frattempo Dantes sia messo in libertà. Senza dubbio, ma fino ad allora? Ebbene, fino ad allora eccomi qua, signor Morrel, disse Danglars. Voi sapete che so governare un bastimento quanto un capitano di lungo corso. Ciò vi offre il duplice vantaggio di servirvi di me e quando Edmond uscirà di prigione non dovrete licenziare nessuno. Lui riprenderà il suo posto e io il mio. Grazie, Danglars, disse l'armatore. Ecco il modo di sistemare tutto. Prendete dunque il comando, vi autorizzo, e sorvegliate lo sbarco. Non bisogna mai, per quante disgrazie capitino agli individui che ne soffrono gli affari. State tranquillo, signore. Si potrà almeno vederlo, il buon Edmond? Ve lo farò sapere tra poco. Cercherò di parlare con il signor di Villefort e intercedere presso di lui in favore del prigioniero. Andate a bordo. Vi raggiungerò tra breve. Andrea Giordana ha letto Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Regia Anna Antonelli. Riduzione Chiara Nicoletti. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it